E siamo di nuovo in diretta su Radio Onda Rossa. Abbiamo in linea i compagni dal Messico. Ci sentite? Sì, siamo qua. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, dicevamo in apertura che il 21 c'è stata questa marcia, questa occupazione delle di 5 città del Chiapas da parte delle ZLN. Un ritorno sulla scena politica nazionale, diciamo. Sì, ecco. Beh, possiamo dire che è stata una grande prova di forza delle ZLN, soprattutto in un momento in cui mediaticamente si segnalava le ZLN come debole. Cioè, il silenzio zapatista, a cui silenzi poi tra l'altro ci hanno abituati, i zapatisti non hanno una presa di posizione pubblica per ogni fatto politico nazionale o internazionale. Però diciamo, ecco, era un po' di tempo che si diceva che le diserzioni nelle file delle ZLN avevano indebolito l'organizzazione e che in qualche modo le ZLN non era più quella di una volta. Mi riferisco ovviamente a quanto si dice nei media ufficiali, perché ovviamente i compagni e le compagne che stiamo qui, che lavoriamo con i compagni zapatisti, sappiamo che questa non solo è una falsità, ma è veramente strumentale come falsità, cioè serve solo per dare un'immagine distorta dei processi organizzativi che si danno dal basso. Quindi il 21 dicembre le ZLN, in una data che non è una data qualsiasi, è la fine e l'inizio del ciclo di un ciclo Maya, dal 13° al 14°, e il 21 dicembre, quella che molti hanno definito la fine del mondo, ma in realtà è solo la fine di un ciclo del calendario Maya, e i Maya, che non si sono estinti, che non sono spariti come dinosauri, ma che vivono e lottano oggi ancora in Chiapas, sono scesi in piazza. Le ZLN ha mobilitato all'incirca tra i 30.000 e i 40.000 persone nella forma che è proprio delle ZLN, quindi marciando comunque in fila di quattro, in maniera disciplinata e soprattutto in silenzio. La caratteristica di queste manifestazioni, oltre all'incredibile numero, perché quando parliamo di 30.000, 40.000 compagni che sfilano nelle città, innanzitutto dobbiamo parlare di compagni che vengono da molto lontano, dai villaggi, per cui è uno sforzo organizzativo notevole portarli in città, ma oltretutto non stiamo parlando di simpatizzanti, cioè non è una manifestazione come le nostre, cioè un'organizzazione convoca e le altre e tutti coloro che pensano che sia motivo da partecipare alla manifestazione vanno, no, le ZLN mobilita i propri affiliati. Quindi le 40.000 persone che hanno sfilato sono 40.000 affiliati delle ZLN e ovviamente in piazza non sono scesi né la gente molto adulta e né i bambini, quindi diciamo hanno mostrato i muscoli e lo zoccolo duro del corpo armato e sociale delle ZLN. Ovviamente la manifestazione, a differenza del 94, è stata pacifica e questa è la caratteristica comunque del nuovo corso che ha preso le ZLN, che non ha desmobilitato le armi, ma che l'esercito è diventato solo un esercito di autodifesa delle comunità e che il soggetto politico continua ad essere le comunità stesse. Infatti caratteristica di questa manifestazione del 21 dicembre, che è stata realizzata a Ocosingo, Altamirano, Palenque, San Cristóbal e Las Margaritas, quindi 5 capoluoghi del Chiapas, la caratteristica è stata che è stato montato un palco di fronte al palazzo di governo di ogni città e sul palco sono passati tutti e tutte. Quindi l'impatto mediatico, però anche direi l'impatto emotivo, cioè l'energia che abbiamo respirato al vedere sfilare 40.000 persone e che tutte e 40.000 le persone sono passate sopra il palco, è stata veramente sconvolgente. Perché ribadisce il fatto che la storia la fanno gli uomini e le donne, non la fanno i dirigenti, la parola non sempre è necessaria perché parlano i fatti, e anche perché ogni uomo e ogni donna che è passato sul palco ha messo sul pugno, quindi cioè diciamo, guarda, mi emoziono solo a riraccontarlo perché abbiamo visto 40.000 pugni chiusi salire su un palco e quindi essere protagonisti anche per pochi secondi, visibili e protagonisti anche per pochi secondi in questa manifestazione. Quindi diciamo che il gioco di simboli e di significati è molto forte, motivo per cui i zapatisti la sera stessa non hanno mandato nessun comunicato se non una letterina che diceva: avete ascoltato? prendendosi burla proprio del fatto che era una marcia silenziosa e che però comunque mostrava molto più di quello che avrebbe potuto dire ogni parola. Infatti sento che non sono sufficienti le mie parole a spiegare la forza emotiva e politica di questa azione. Stiamo parlando comunque di un Chiapas molto militarizzato, stiamo parlando comunque di un Chiapas che si vuole vendere come meta turistica, quindi pacificato, che però invece un giorno, non un giorno qualsiasi, ma il 21 dicembre, quando tutta l'attenzione è sui Maya, questi Maya tornano incappucciati a occupare 5 capoluoghi. Spesso si parla di una riapparizione pubblica delle 3LN, forse pubblica sì, però non è un ritorno delle 3LN. Le 3LN in questi anni non si è mai sottratta al dibattito politico e non ha mai smesso di lottare. Motivo, la dimostrazione è che nelle comunità zapatiste oggi veramente è uno dei pochi posti nel mondo dove in maniera esplicita l'autogestione è fatta a governo, dove in maniera esplicita i compagni rifiutano qualsiasi appoggio istituzionale, qualsiasi appoggio dei partiti per costruire dal basso un altro mondo possibile. Un altro mondo possibile che include cliniche autonome, scuole autonome, terre lavorate collettivamente, forme di giustizia alternativa, forme di governo alternative, rotative, revocabili, non remunerate. Tutto questo che sta costruendo le 3LN è veramente un contropotere, però sviluppato, che già sono 10 anni che va avanti in queste forme come lo sto raccontando adesso, e che semplicemente non ha bisogno di esplicitarsi pubblicamente con comunicati in ogni momento, ogni qualvolta sia necessario, ogni qualvolta il potere dall'alto, con la sua agenda politica dall'alto, determina o decreta che i zapatisti sono morti o decreta che il Chiapas è pacificato. La risposta migliore dei zapatisti è continuare a scavare ancora più profondamente la trincea, e ossia costruire l'autonomia dal basso. Poi, di volta in volta, veramente ci danno queste iniezioni di energia, come è stata la manifestazione del 21 dicembre, in cui possiamo vedere che è anche un messaggio chiaro al governo, che dice non solo noi, i simpatizzanti, ma anche ai nemici, che ricordiamo che è tornato il PRI dopo che per 70 anni ha governato il paese, per 12 anni è stato sostituito dal PAN, che è un partito della destra liberista, è tornato il PRI, Partito Nazional Popolare, anch'esso liberista oggi come oggi, però è tornato colui che ha fatto la guerra alle 3LN, e le 3LN in questa manifestazione sta dimostrando che se ci volete sterminare dovete almeno preparare 40.000 pallottole, cioè che qui la situazione non è chiusa, le diserzioni non hanno dimezzato l'organizzazione come scrivete sui giornali, qui siamo almeno 40.000, per il governo sono conti che si deve fare prima di pensare a un'altra offensiva militare. Senti, penso che questo può essere. A proposito dell'attacco del governo alle Z, nella vostra trasmissione di qualche giorno fa avete parlato di guerra combinata di sfiancamento contro le comunità indigene del Chiapas. Puoi spiegare un po' in che modo lo Stato ha represso questo l'esperimento rivoluzionario? Sì, guarda, è proprio appunto. Diciamo, nel mondo si è conosciuto la guerra in Chiapas, scoppiata lì nel 94, i primi 12 giorni sono stati la guerra classica, no? Una guerriglia che prende posizione nelle città, la controffensiva militare del governo, e poi dopo c'è stata in qualche modo la società civile, non in qualche modo, cioè in maniera imponente la società civile ha imposto degli accordi di pace. Mentre si sono fatti gli accordi di pace, il governo ha dovuto sviluppare delle forme di contrainsurgenza, come si dice qua, forme controinsurrezionali, via via sempre più sofisticate, ma non per questo meno brutali. Oggi viviamo un processo che soprattutto dall'anno 2000 corrisponde alla guerra in atto in Chiapas, che appunto è il rovescio della medaglia di una faccia pubblica dei partiti politici e del governo, che è quella che no, in Chiapas stiamo risolvendo il conflitto, in Chiapas comunque stiamo cercando la pace, in Chiapas comunque dobbiamo risolvere i problemi sociali che hanno generato comunque l'insurrezione del 94. Nel discorso ufficiale del governo tutti riconoscono che le condizioni prima del 94 erano impossibili per la gente e che quindi in qualche modo giustificano, dico retoricamente, l'insurrezione del 94, nel senso non c'è nessuno che è in grado di dire non, però non dovevano prendere le armi, che era tale la situazione che si giustifica. Quindi il governo approfitta questo discorso per dire però adesso stiamo costruendo ospedali, adesso stiamo facendo le strade, adesso stiamo dando soldi alla gente, e in realtà tutto questo discorso è parte di quella che chiama appunto la guerra combinata di sfiancamento, ossia una guerra integrale di sfiancamento, ossia una guerra che che utilizza diversi strumenti al fine di sterminare le FDLN. Per questo continua a essere una guerra. Il governo la chiama, in termini militari si chiama guerra di bassa intensità, perché si misura la guerra sul volume di fuoco. Però qua non è solo il volume di fuoco, che comunque rimane fuoco, cioè che comunque miete vittime ancora in Chiapas, cioè i militari sparano, i paramilitari sparano, non è che non c'è questo. Però l'attacco alle comunità zapatiste viene fatto attraverso anche quelle che viene chiamato le bombe economiche, i programmi di governo. Perché? Perché i zapatisti stanno in resistenza dal 94, non pagano le bollette della luce, quindi stanno in autoriduzione totale delle bollette, non pagano le tasse sui terreni, perché i terreni sono territori ancestrali indigeni, perché devono pagare uno Stato che li utilizza per armare gli eserciti, e gli zapatisti non collaborano con i partiti politici, in nessuna forma non votano. Quindi che fanno? Costruiscono i propri ospedali, costruiscono le proprie scuole. Quindi il governo fa, per esempio, 300 pesos al mese per ogni bambino che va alla scuola del governo. Cioè qui il governo paga le famiglie affinché mandino i bambini alle scuole del governo. Potete immaginare questo, che ovviamente in famiglia poi tra l'altro di 6, 7, 8 bambini, che significa che diventa quasi un business, diventa quasi non tanto un business, però diventa quanto un ricorso economico fondamentale mandare i figli a scuola del governo e non alla scuola autonoma zapatista, perché là ti danno i soldi. Quindi è una compra, un acquisto proprio di coscienze della gente, perché ovviamente un zapatista, costruendo l'autonomia, partecipa nei processi autonomi. Quindi per questo diventa complicato, tra l'altro, svelare dove sta il meccanismo perverso del governo per annientare l'organizzazione, però sta proprio là, non solo nella costruzione di ospedali e scuole che comunque non compiono con la propria funzione, cioè comunque non è un servizio di salute degno, le case che costruiscono nelle comunità sono fatiscenti, cioè comunque se mantiene il governo nel minimo della spesa, e attraverso questo minimo, però approfittandosi della povertà che ancora cinque regna nelle comunità indigene, cerca di comprarsi le coscienze. Questa è una forma. Dopodiché c'è il silenzio mediatico, nei giornali non appare, prima i zapatisti erano famosi per stare su internet, per apparire sui giornali, per averci insomma un certo feeling con la stampa, questo feeling è morto da un bel pezzo ormai, e corrisponde a un silenzio nei mezzi di informazione totale, cioè non si sa nulla di quello che succede in Messico, ma non si sa nulla in Messico. Cioè, veramente sono isolati, e quando si menzionano vengono criminalizzati, ossia anche fatti di delinquenza comune vengono assegnati a figli di zapatisti soltanto per screditarli. Quindi è abbastanza complesso. Inoltre poi c'è stata l'attivazione e la riattivazione di gruppi paramilitari storici e il fomento di conflitti interni nelle comunità attraverso organizzazioni sociali, alcune addirittura di sinistra, che in concorrenza con i zapatisti sugli stessi territori. Praticamente i zapatisti hanno occupato territori, però non sono riconosciuti legalmente. Quello che fa il governo anche a organizzazioni di sinistra è invitarli a occupare i territori recuperati dai zapatisti e poi assegnarli illegalmente. Quindi tutte le organizzazioni socialdemocratiche, le organizzazioni di sinistra che però cercano la legalizzazione e l'integrazione nello Stato messicano, vedono là dei territori vuoti legalmente che possono occupare e farsi assegnare e quindi ridistribuirli ai propri membri. E quindi questo crea un conflitto anche con certe organizzazioni di una certa sinistra, che ovviamente è la sinistra parlamentare e partitica. Quindi è abbastanza complesso. Tutti questi meccanismi messi insieme creano quella appunto che noi chiamiamo una guerra di sterminio, una guerra integrale di sfiancamento contro le FDLN, il cui obiettivo è annientare le FDLN aumentandone inverosimilmente le diserzioni. Però noi abbiamo preparato la trasmissione in cui abbiamo spiegato questa, che invitiamo a ascoltarla, di una radio, spieghiamo con maggiore dettagli anche questa guerra che si porta avanti comunque almeno dal 2000 in questi termini in cui vi la sto raccontando, cioè con programmi di governo, soldi, pioggia di soldi per corrompere le coscienze, e silenzio mediatico, riattivazione dei gruppi paramilitari. Allora, questo tipo di guerra ovviamente è quella che dicono avrebbe annientato le FDLN, ma vediamo che i risultati sono tutt'altro. Insomma, se 40.000 zapatisti ancora possono sfilare nel 2013 e riprendersi cinque città, c'è ancora molta storia da raccontare nei prossimi anni. Sì, tu hai detto che il giorno il 21 dicembre non sono usciti comunicati, ma nei giorni successivi le Z ha fatto uscire alcuni documenti sul giorno. Diciamo, ecco, quindi per chiudere il 21 si chiude così, chiude con un silenzio, con una manifestazione che mantiene il silenzio zapatista. Cioè, l'idea è che con il silenzio possiamo lottare ancora, il silenzio è un'arma. Sul comunicato passo la compagna che ci potrà raccontare bene che è stato detto il 30 dicembre, dove comunque l'età dell'N si riprende parola nei termini classici in cui siamo abituati, ossia con un comunicato. Ciao a tutte e tutti. Ciao. Mi sentite? Sì, sì, si sente benissimo. Come va? Ok, tutto bene. Allora, io, vabbè, mi allaccio al discorso che ha appena fatto Fazio, dicendo quello che è stato detto il 30 dicembre del 2012, che proprio in seguito alla marcia silenziosa che c'è stato il 21 di dicembre, c'è stata questa ripresa di parola pubblica, che però poi ci tenevamo a sottolineare che al di là di queste prese di parola, comunque il lavoro degli zapatisti è quotidiano e persiste giorno dopo giorno. E la cosa più importante è che tutto questo è al di fuori di qualsiasi gioco elettorale, e al basso e a sinistra. E va bene, io cioè, comunque vi volevo leggere alcune parti che per noi sono cioè, le fondamentali dei comunicati che sono usciti, perché sono usciti tre comunicati, di cui uno è proprio un comunicato dove le ZLN annuncia i suoi prossimi passi, e mentre gli altri due sono più delle lettere d'attacco alla classe politica messicana. E leggendo appunto da questo comunicato, leggo direttamente, abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo chi siamo, col nostro silenzio ci siamo fatti presenti e ora con la nostra parola annunciamo che, primo, riaffermiamo e consolidiamo la nostra appartenenza. Ci siete? Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Ok. Vai, vai. Scusate, Riaffermiamo e consolidiamo la nostra appartenenza al Congresso Nazionale Indigena, spazio di incontro con i popoli originali del nostro paese. Secondo, riprenderemo il contatto con i nostri compagni e le nostre compagne aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona in Messico e nel mondo. Qua un piccolo inciso, che la sesta dichiarazione della Selva Lacandona è quella che è uscita nel 2005 e è quella che praticamente lancia la otra campagna del nuovo piano programmatico delle ZLN. E poi, andando avanti, terzo, cercheremo di costruire i ponti necessari verso i movimenti sociali che sono sorti e sorgeranno. Quarto, seguirà la nostra distanza critica nei confronti della classe politica messicana. Cinque, rispetto al malgoverno federale, statale e municipale, esecutivo e legislativo e tutti i media che li accompagnano, diciamo le seguenti cose: il malgoverno, senza nessuna eccezione, hanno fatto tutto il possibile per distruggerci, comprarci, per farci arrendere. Non ci sono riusciti e non ci riusciranno. E vabbè, questi erano, cioè nel senso, non so, magari cioè, non sono stata nemmeno troppo chiara, comunque erano i punti fondamentali del comunicato che è uscito. Poi comunque per maggiori approfondimenti si può vedere sul sito delle ZLN, dove comunque sia ci sono altri approfondimenti maggiori. E niente, adesso passo comunque la parola a Matteo, che invece ci farà un quadro un po' più generale su quello che è stato il seminario antisistemico che si è tenuto a cavallo dei giorni di Capodanno nel Fide di Tierra. Bene, grazie, ciao, un va abbraccio. Bene, di niente, ciao. Pronto? Pronto, eccoci. Oh, mi sentite? Sì, sì, sì, ti sentiamo benissimo. Te? Tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Senti, allora, se va tutto bene, inizio a dire due cose riguardo il seminario. Vai, spiegaci. Dunque, si è tenuto a Sidesi, una sorta di un club zapatista legato al progetto Uniterra, appunto il terzo seminario internazionale di riflessione e analisi Planeta Terra, il movimento antisistemico. È stata, diciamo, una quattro giorni che si è svolta dal 30 dicembre al 2 gennaio, con interventi molto interessanti di indigeni, contadini, intellettuali, in particolar modo del Sud America. E diciamo, partecipando a questo seminario si è avuta pieno l'impressione che l'America Latina sia un'enorme pentola in ebollizione sul punto di scoppiare. Ovunque gli indigeni si organizzano sulla strada dell'autonomia, come in Argentina, dove indigeni di 7 regioni si sono unite in un movimento indigeno nazionale, è stata fondata una scuola di agroecologia che già dal primo anno ha formato 70 giovani di diverse culture e tradizioni, e ora si è arrivati addirittura alla prima università contadina. E anche per quanto riguarda la sanità, da cui diciamo gli indigeni sono sempre stati esclusi, ora ogni comunità ha il suo proprio promotore di salute, quasi a ricalcare i promotori di salute delle comunità zapatiste. In Ecuador anche vi è un grande sollevamento indigeno che critica l'attuale stato neocoloniale in favore di un nuovo sistema organizzativo comunitario, e dopo aver constatato la totale inutilità del mezzo elettorale vi è stata una radicalizzazione della lotta, un inasprimento della lotta, e ogni giorno in Ecuador ci si batte contro la costruzione dei nuovi pozzi petroliferi e miniere in tutta la zona amazzonica, e il conflitto in Ecuador sta esplodendo sempre di più, e credo che anche nei prossimi tempi avremo notizie abbastanza spaventanti da quelle zone. Quindi diciamo, si continua a combattere contro in tutto il Sud America contro le multinazionali, che comunque qua in Messico hanno messo le grinfie su tre quarti del paese, il 40% di quello che può essere definito il territorio nazionale, e valga su tutti il caso del MAIS, appunto, dove appunto cioè, il capitale in crisi massifica i due attacchi appropriandosi del sistema alimentare, e le multinazionali quindi tentano di distruggere ogni forma di alimentazione indipendente, e la Monsanto si è appropriata proprio del mais, manipolandolo, comprandone i diritti, tra virgolette. Può essere definito il monopolio corporativo più grande della storia del capitalismo. La Monsanto infatti detiene oltre il 70% della famiglia transgenica, e tutta questa monocultura transgenica sarà dannosissima sia per la salute, in quanto comporterà infertilità, cancro, casi di cancro, eccetera, ma anche per la terra stessa. C'è da dire che la Monsanto anche ha fatto dei test al riguardo, durati 3 mesi in cui dice che è andato tutto bene, peccato che gli influssi negativi di questa monocultura si riconoscano dal quarto mese in poi, diciamo. Quindi c'è una totale svendita non solo della terra degli indigeni, ma anche di tutta il loro panorama culturale. Si può quasi definire un golpe culturale. Per esempio anche per quanto riguarda la cosiddetta fine del mondo, dal 2011 qui attiva una sorta di, si chiama segreteria Mundo Maya, che incentiva l'ecoturismo per il recupero delle tradizioni Maya come primo motore dello sviluppo nazionale, e tutto ovviamente è piegato ai reali interessi economici di chi sappiamo, stravolgendo le culture locali con mistificazioni new age, tra le quali appunto la fine del mondo, che è diciamo, il supremo stravolgimento commerciale di quella che è la cultura maya, che è svenduta ormai al turismo di massa, con beneplacito della Banca Mondiale. E, appunto al turismo sostenibile, ecosolidale, va posta per la difesa delle tradizioni maya un'unica soluzione invece da parte degli indigeni, ovvero la lotta anticapitalista contro la devastazione ambientale e gli interessi delle corporation, contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Quindi la ribellione indigena propone altri argomenti, altre argomentazioni che compongono tutta un'altra voce, quella degli accordi incompiuti di San Andrés, quella del massacro di Acteal, quella dell'opera campagna, diciamo. Che poi, ricordiamolo, tu hai parlato appunto anche degli indigeni dell'Ecuador e dell'Argentina. In quei paesi le loro lotte sono dirette contro governi che pretendono di essere di sinistra, che pretendono di essere progressisti, e poi sì, si comportano come si comporta il governo del Messico o della Colombia, moltiplicando le concessioni per lo sfruttamento petrolifero, minerario, per lo sfruttamento forestale, come dicevi te, anche per la grande agricoltura monocultura per l'esportazione, come anche in Argentina con la soia transgenica, e eccetera eccetera. Senti, sì, ma chiaro, infatti c'è la totale disillusione nei confronti di tutto il panorama istituzionale e elettorale. Anche in Ecuador, per esempio, hanno provato la via elettorale, constatandone la totale inutilità, il totale fallimento, diciamo. Questa cosa comunque è essenziale e, diciamo, riguarda un po' tutte le lotte che ci sono in Sud America, da Mapuche fino a Guatemala, per arrivare fino a qua in Messico. Sì, non so se vuoi dire altro rispetto a questo incontro, oppure... No, se la cosa dell'incontro, diciamo, è uscito il comunicato del ZLN di cui si parlava prima, e la cosa cruciale, che poi è partita da lì, ma che è stata resa pubblica, è che nei prossimi giorni le ZLN darà a conoscere una serie di iniziative di carattere civile e pacifico, appunto per seguire camminando uniti, come dicono loro, uniti con gli altri popoli organizzati del Messico e di tutto il continente, diciamo. Beh, del mondo intero, ovviamente, per resistere da basso a sinistra. Bene, siamo in attesa delle cose. Poi quindi ci risentiremo nelle prossime settimane. Sì, spero il prima possibile, diciamo, perché siamo in fervente attesa dalla selva. Bene, non so se volete aggiungere altro oppure ci salutiamo, noi possiamo... Vabbè, noi possiamo anche... No, abbiamo detto l'essenziale, diciamo. Ok. Poi speriamo di parlare a lungo la prossima volta. Sì, ci risentiamo presto allora, un abbraccio a tutti.